Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Oggi, cari amici, vi voglio rapidi e scattanti, forse lo siete già, ma prendete rapidamente una decisione, veloce e conveniente. Restate con me e raccontatemi se vi sentite tipi svegli, in gamba, sempre presenti, all'altezza della situazione, super attivati e soprattutto pronti. Oppure, se a volte temete di perdere i colpi, siete sbadati, impacciati, goffi, distratti, direi un po' scollegati. Pronti o non pronti, partiamo e proviamo a testare i nostri riflessi. Afferrare un bicchiere al volo, sicuramente una prova di buon riflessi. Schivare il ciclista, come è capitato proprio a me oggi, che mi stava puntando, ero sulle strisce pedonali. O magari ancora prestare aiuto ad una persona in difficoltà, aiuto ad un bambino, soccorrerlo. Noi attiviamo sicuramente la nostra prontezza di riflessi, cosa che facciamo ogni giorno usando il linguaggio. Anch'io lo sto facendo in questo momento, evitando ad esempio di fare le papere, che mi vengono molto bene. Ma in linea con noi ho il professor Andrea Moro, che è ordinario di linguistica generale alla Scuola Superiore Universitaria USS di Pavia. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti. Professore, già dopo tutta questa presentazione mi sto impaperando, ma io andrei subito al tema e partirei dalla battuta, che a volte è pronta, a volte è lenta, non arriva proprio. Chissà, sarà capitato anche a lei, anche se ordinario di linguistica, di dirsi: ma avrei dovuto rispondergli così, avrei dovuto dirgli cos'ha, invece sono rimasto lì proprio come un merluzzo, non sono riuscito proprio a dirgli nulla. Capita anche alle persone più pronte. Sì, guardi, mi capita così tanto che proprio adesso, mentre stavo pensando a quello che stava dicendo, sono sicuro che non riuscirò a dire nulla di simpatico, però appena avrò appeso, se è possibile, le ritelefono, perché tutte le battute mi saranno venute in mente. Perché è proprio così, la battuta è una specie di duello che noi facciamo a parole. E gli ingredienti sono tanti: c'è la distanza sociale con chi sto parlando, c'è la confidenza, l'arguzia, l'intelligenza, ci sono personalità riflessive che ci mettono tantissimo tempo a rispondere e altri invece, come alcuni politici, che hanno le battute fulminanti. Però è un po' come la differenza tra un maratoneta e uno scattista, no? Hanno attitudini diverse, ma tutti possono vincere la gara. Però è interessante notare questa cosa, che ci sono alle volte in cui le battute proprio non si colgono. Ci fu un caso famoso di un recensore di un articolo scientifico che proprio aveva detestato quell'articolo e finisce dicendo: questo articolo colma un vuoto provvidenziale. Soltanto che l'autore non si era accorto del fatto che un vuoto provvidenziale in realtà è una cosa che deve rimanere vuota, certo. E gli ha risposto ringraziandolo tantissimo per la bellissima recensione. E quindi alle volte noi proprio non ce la facciamo ad arrivare. È interessante anche notare che poi alcune battute sono, per così dire, involontarie, e lo sono su due versanti. Lo sono quando emerge l'inconscio e quindi... Lì è dura. Lì è durissima, perché noi ce l'abbiamo messa tutta per nascondere quella cosa che non dovevamo proprio dire in quel momento, eppure ci scappa. E poi però diventano anche molto molto interessanti, perché ci insegnano a capire come funziona il cervello. Ci sono delle patologie come le sindrome frontali, in cui ci sono delle degenerazioni, delle lesioni dei lobi frontali, in cui il paziente, tra le altre cose, diventa disinibito. Io ricordo di una nostra giovanissima collega che fu presentata a una dolcissima vecchietta dicendole: questa è la nostra volontaria che viene qui ad aiutarla, e la vecchietta gli rispose: sì, grazie che mi aiuti, ma chi glielo fa fare gratis? E poi invece è nata un'amicizia anche in quel caso. Le opportunità sono due: o decidiamo che non c'è niente da fare, ce ne facciamo una ragione, amen, oppure restiamo qua e continuiamo a lamentarci, oppure, è forse il caso, cominciamo a fare qualcosa. E allora con gli oppure però siamo a tre e non sono più due, come avevi detto. Va bene, Bart, allora io stavo cercando di fare un ragionamento. Però se vuoi giocare, giochiamo, dai. Ah, ma perciò quando parlavi di cambiare intendevi cambiare canale? Chissà che avevo capito io. Ma tu ti rendi conto di quanto puoi essere irritante certe volte? L'uomo accappatoio! Che problema c'hai con il mio accappatoio? Me l'hai regalato tu. Vabbè, allora mettitelo, dai, vattelo a mettere. Me lo metto, sì, sta bene con tutto. Da Santa Maradona, in cui la battuta era veramente pronta, noi passiamo, saltiamo in un'altra occasione in cui il linguaggio mette alla prova i nostri riflessi, e saltiamo perché mi riferisco al saltare da una lingua all'altra. Un tempo, professore, lei si ricorda, si passava dall'italiano al dialetto, oggi si sfoggia l'inglese. Sì, intanto i dialetti non sono mica così tanto morti. Meno male. Sì, difatti, meno male. È una ricchezza del nostro paese. L'importante è ricordarsi di sapere quando usare la lingua giusta. Ma saperle tutte e due certo non fa male. Anche perché certe volte noi sfoggiamo l'inglese, ma intanto non sappiamo che non è inglese, come i famosi media, che insomma si sa, no? Che è il plurale di medium, che non vuol dire altro che mezzo in inglese. Oppure quelle volte che ti capita di dire come intercalare, o insomma di avvisare, dire beh sai ubi maior, e poi magari quell'altro ti risponde insomma basta con questo inglese. Sì. Capita, secondo me lo assicuro. Però è anche interessante ancora una volta l'altro versante, cioè al di là di quello aneddotico, quello sistematico, l'esplorazione scientifica di quando avvengono queste cose. Per esempio in un esperimento che con il gruppo con cui lavoro da tanto tempo a San Raffaele abbiamo provato a trasmettere a delle persone una storia, avevamo scelto il Piccolo Principe, e a saltare da una lingua all'altra, e avevamo visto che il cervello riconosceva quando il salto era stato tra due parole che si accordano, come per esempio il cane, che sono tutti e due maschile singolare, o quando invece le parole non si accordano, come se dico ad esempio leggo libri, dove leggo è singolare e libri plurale. Ecco, allora il salto di codice, questo salto di codice il nostro cervello veramente reagisce subito, immediatamente, senza quasi dircelo. Noi frughiamo tra i dizionari che abbiamo nel cervello rapidissimamente. Anche qui ogni tanto sbagliamo pagina e ci capita di passare da una lingua all'altra in modo non corretto. E quando si mischiano le lingue allora possono nascere anche casi divertenti. Tecnocrate che comincia a esporre alcune macchine. Christian, you fuck man for us to give a prepare roll for sex to this and that right now. Notate che c'è una leggera pronuncia tedesca dentro. È di origine germana. Let go from bread, says the descent, the kiss and there, or from best, six to the wolf, fire, black and die. Kiss and there, when black, they stick to me, but they stick to American, so they go from fun and sack to the world. Vi assicuro che ho avuto un grosso trauma quando ho recitato questo pezzettino a Parigi per la prima volta 4 anni fa ormai. Proprio a questo punto 4 americani si sono sollevati in piedi, c'era anche una donna, e in francese hanno urlato. No, basta, questo è troppo! Non è mai troppo Dario Fo, mi piace molto, ma professore anche lei mi piace, e io ritornerei alla lingua e all'uso di diverse lingue. In una società come la nostra dobbiamo essere pronti a cambiare codici linguistici, ma questo presuppone una serie di... posso usare il termine prontezze? Sì. Ecco, la prima ad esempio è capire la lingua che stiamo ascoltando. Il gulco gianigeva la brala. Infrantavano gli oprammi. Il tappento non tonce mai. Quella molmeca non alinava questa frida. Il trago fabbisce ogni lustasio. Si tasallano molte barne. Tutti i gorpotti sono stati gasporati. Professore, qui faccio un autogol, lo confesso, perché non mi si è proprio attivato nulla. Cioè il vuoto totale, no, direi no, un pieno, una grande confusione. Invece no, e in questo momento lei e tutti i teleascoltatori, radioascoltatori anzi, sono stati soggetti di un esperimento. In questo esperimento noi abbiamo riconosciuto una struttura grammaticale senza riconoscere il significato. Ed è stato proprio sulla base di strumenti di stimoli di questo tipo che noi abbiamo fatto una volta un esperimento per cercare di vedere se il cervello aveva una rete dedicata per le regole, una rete che togliesse dall'imbarazzo di capire il significato. E quando noi abbiamo sentito quelle frasi, anche in quel caso il nostro cervello ha consultato rapidamente i nostri dizionari, però è andato da cima a fondo 2 o 3 volte e non ha trovato nulla. Eppure nel profondo abbiamo capito che si trattava di frasi della nostra lingua. E questo succede tutte le volte che noi veniamo portati all'estero e riconosciamo che pur non capendo le parole sappiamo che quella è una lingua diversa. discorso sarebbe veramente molto lungo, però gli esempi che lei ha fatto mostrano evidentemente come c'è di più di quello che noi possiamo immaginare nella nostra prontezza, nelle nostre reazioni linguistiche, alcune delle quali evidentemente non passano attraverso la nostra coscienza, ma sono davvero un po' come quel bicchiere che lei aveva nominato all'inizio, che ci tirano in faccia e che noi scansiamo senza ragionarci troppo. Senta, professore, ma lei è sicuro che il gulco ha gianigiato la brala? Guardi, glielo posso assicurare solo se lei mi giura che il napirzo non ha aggazzato nessuna pitanga. Glielo assicuro. Grazie, professore. Grazie a lei. Buona giornata. Grazie. Irene, da Lucca, buongiorno a lei. Buongiorno. Allora, io sono un tipo imbranato, non pronto, dall'elementario ho avuto giudizi di eccezionalità o la maggior parte disastrosi. Quello che volevo dire è che mi sono educata cercando di analizzare i miei pregi e i miei difetti, ho cercato di impormi di essere tranquilla, di essere più reattiva in ciascuna situazione e la cosa funziona, purtroppo a intermittenza, a dire la verità, però per esempio ci sono dei trucchetti, per esempio io vado a correre tutte le mattine cercando di impormi di prendere una cosa alla volta, di essere concentrato in ciò che sto facendo e piano piano a intermittenza la cosa funziona, si riesce un pochino di più a essere un pochino più reattivi piano piano. Brava Irene, quindi ci ha dato anche un suggerimento, ma noi giriamo la riflessione di Irene al nostro ospite, il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Buongiorno professor Barbanti. Buongiorno Nicoletta, ben trovata. Allora, Irene si è allenata ed è cambiata. Beh, è un qualcosa di possibile. Il nostro cervello, come tutti sanno, ha enormi potenzialità ancora parzialmente solo esplorate. È interessante, visto l'argomento che veniva trattato prima, quanto ci sia di volontario e a volte di involontario nelle nostre risposte, vedere bene il tema dei riflessi, per esempio. Il tema dei riflessi è un tema affascinante perché è un qualcosa che abbiamo dalla nascita in maniera estremamente sviluppata e che tendiamo a perdere solamente quando non stiamo bene o quando ci ammaliamo. Io faccio un esempio per i nostri ascoltatori. Sì. Chi per esempio adesso ci sta ascoltando senza accorgersi sta deglutendo, a cosa serve? Beh, i riflessi sono un'assicurazione sulla vita, sono le nostre guardie del corpo, sono innati e servono per tenere le nostre funzioni vitali sotto chiave. Ma nel frattempo stiamo anche respirando e non ce ne stiamo accorgendo. Qualcuno starà sentendo la radio, sbrigando le faccende domestiche, sta in piedi e dà i riflessi posturali che gli garantiscono di non cadere. Scommetto che lei, Nicoletta, nel frattempo ammica, magari se avete a contatto come me, ammica ancora di più. Beh, una cosa su cui vorrei porre l'attenzione di chi ci ascolta è il fatto che queste situazioni che consentono a noi di vivere bene a volte ci possono fare vivere male. Un esempio per tutti, il soggetto ansioso, il quale dice mi sento un nodo alla gola, non riesco a respirare. Cosa gli è successo? Per via di un allarme alla sua centrale, quindi nelle zone limbiche, si è reso cosciente di alcune funzioni riflesse che invece, proprio perché riflesse, non occorre averne coscienza e quindi vive male. Questo è un tema che può aprire tante, tante discussioni, ma ricordiamoci sempre che quando un bambino nasce la prima cosa che fa il pediatra gli mette gli unghietti in bocca e vede il bambino la suzione. I riflessi sono la dimostrazione che siamo vivi e che stiamo bene. Siamo il riflesso dei nostri riflessi. Allora, professor Barbanti, ai nostri ascoltatori che ci stanno seguendo, quali domande poniamo? Incominciamo a chiedere a loro, ecco, vorrei partire proprio dall'aspetto dell'ansia. Quante persone che sono all'ascolto sentono a volte una sensazione di non farcela respirare, si spera che non siano fumatori e non abbiano la bronchite, in realtà solo per motivi di apprensività. Mi è capitato recentemente una persona che aveva addirittura perso 15 kg, un giovane ragazzo, il quale diceva non riesco a deglutire, rigirato come si dice a Roma come un pedalino, funzione deglutitoria perfetta, era semplicemente una persona in cui il riflesso, che come tale deve essere silente deve essere assolutamente incosciente, era stato coscientizzato. Ebbene, allora facciamoci un esame di coscienza, vediamo chi tira fuori qualche riflesso in più rispetto a quelli che io ho chiesto, ma chi per esempio si trova ad averne la sensazione faticosa in ogni momento. Beh, in quel caso forse è meglio andare dal medico. Andiamo a Roma, ci chiama Beatrice, buongiorno. Buongiorno. Beatrice, lei sta respirando, deglutendo, magari ammiccando e parlando con noi tra poco. Sì. Quante cose insieme? Tutte queste. Che cosa ci voleva raccontare, Beatrice? Ma dunque, guardate, io è un, diciamo, un problema che mi si è creato nei rapporti sociali in passato e anche con il lavoro. Avevo un aspetto un po' da addormentata, cioè nel senso che mi davano questo appellativo perché ho un atteggiamento un po' troppo riflessivo. A proposito di riflessi, professor Barbanti. Mm. Cioè come non vivere una situazione reale del momento, ecco. Mm. E quindi questa cosa mi ha anche un po' compromesso anche i rapporti sociali. Forse, non so, forse vivevo uno stato di tensione continuo per cui ed ero anche molto indecisa. Poi però è successo che da quando sono diventata madre, insomma alcuni anni fa diciamo, sì, ho cambiato talmente questo atteggiamento, cioè sono diventata esattamente l'opposto, cioè colgo di più le occasioni, sono molto più pronta, ho la battuta pronta. Forse, non so, io penso che sia per il fatto di avere una responsabilità, no, su dei minori, sui miei figli, insomma, mi ha fatto scattare qualcosa per cui sono uscita totalmente da questo stato di torpore tra virgolette. E si sente però meglio? Mi sento benissimo. Benissimo, brava Beatrice. E non riesco a capire perché ero così prima. Professor Barbanti, la gravidanza l'ha cambiata, questo è sicuramente un dato positivo. La gravidanza cambia moltissimo per motivi non solo psicologici ma anche ovviamente neurochimici. È interessante quello che ha detto l'ascoltatrice di Roma, perché in realtà i nostri riflessi, quelli propriamente detti, cioè queste reazioni vitali, sono cose che passano al di sotto della nostra coscienza. Poi nel corso della vita noi vestiamo la nostra vita esclusivamente riflessa di una cotenna, di una corteccia che è fatta invece della nostra vita di relazione, e come sempre succede è uno scambio tra noi e l'ambiente, evidentemente l'ambiente in cui la signora è cresciuta è un ambiente che per motivi culturali e per motivi di educazione, per motivi di interazioni sociali e scolastiche l'ha portata ad essere piuttosto riservata. Evidentemente l'ambiente poi è cambiato, ha avuto di fronte un figlio, in questo caso l'apertura è necessaria ed ecco che si è svestita di un habitus che era un habitus culturale. Attenzione però, e lo dico a tutti quelli che rimangono invece apparentemente impassibili e senza riflessi, anche se in questo caso intendiamo riflessi in senso lato, può essere una virtù, un giocatore di poker, un grande dirigente, un papa, un religioso, hanno nella impassibilità, nell'apparente aspetto così tetragono di fronte alle situazioni esterne, la loro grandezza. Quindi c'è un ruolo per tutti. Ci sono persone che sono più veloci nella battuta, nella risposta, altre che invece hanno delle ottime risposte dal punto di vista fisico, muscolare, sono scattanti, agili. Ah, questo introduce il concetto di reazione, e la reazione è diversa dal riflesso. Il riflesso è, insomma, rende tutti uguali, dal piccolo al grande, dal bianco al giallo, tutti i riflessi sono uguali. Le reazioni no, le reazioni sono diverse, perché le reazioni sono apprese e sono frutto dell'incontro tra noi, la nostra esperienza, la nostra cultura e l'allenamento. La reazione è la maniera personale che noi abbiamo di fronte a un evento, non ce n'è sempre una buona e una cattiva, c'è tutta una gradazione, diciamo, assortita per taglie e per colori, usando un eufemismo da negozio d'abbigliamento. Faccio un esempio: noi dobbiamo stare attenti, vigilare su quello che accade intorno a noi, e se possiamo avere come reazione l'attenzione, se la esasperiamo possiamo avere lo stress. Noi possiamo avere un granellino in un occhio e lo strizziamo, quella è un'azione, è una reazione ad un evento, ma se questo si ripete, ecco che compare il tic o una impulsività. Per esempio, possiamo avere un pensiero che ci nasce per una situazione esterna e da questo come reazione possiamo avere il ragionamento, ma se gli mettiamo il turbo diventa un'ossessività. E intanto noi andiamo a sentire Piero che ci chiama da Lecce. Piero, buongiorno. Volevo fare questa domanda. Io faccio un esempio. Io non potrei mai fare un concorso in TV, per esempio a quiz, perché pur conoscendo le risposte, quando poi si fa la domanda immediata non riesco mai a ricordare sull'istante, quindi con velocità, quindi la risposta o di un nome o di una via, di una strada. Per esempio queste sono cose che non riesco a registrare e anche a ricordarle, molto di frequente. Oppure quando, ecco un altro tipo di esempio, quando uno deve parlare davanti a delle persone che non conosce, molto spesso, pur sapendo tutto quello che deve dire, sì, tende a essere non chiaro, pur volendo essere chiaro. Ecco, era questo che volevo sapere, perché dal professore, se era una cosa legata all'emotività, all'ansia, per esempio quella di non ricordare sull'istante i nominativi o di una via o di un poeta, di un attore, eccetera, oppure era qualche cosa di... E soprattutto, di Piero, se da questa situazione si può in qualche modo uscire. Harry, questa è Sally Albright, Harry Burns. Io e Harry abitavamo nello stesso palazzo. Già. Senti, devo prendere un aereo, è stato un piacere, Joe. Anche per me, Harry. Arrivederci. Grazie a Dio non mi ha riconosciuto. Ci ho fatto Chicago e New York insieme 5 anni fa ed è stata la notte più lunga della mia vita. Perché mai? Ci ha provato con me e quando gli ho detto di no, dato che stava con una mia amica... Oddio, non mi ricordo il suo nome. Non ti mettere con me, Joe, ho 26 anni e non mi ricordo nemmeno il nome di una ragazza di cui ero tanto amica da non voler andare col suo fidanzato. Siamo partiti dal caso di Piero e abbiamo fatto un'escursione in Harry ti presento Sally per così presentarvi questo che è un problema molto diffuso. Ci sono tante persone che mi scrivono e dicono non mi ricordo il nome, ce l'ho sulla punta della lingua oppure dico quello sbagliato. Essere e benessere. Eccoci, siamo tornati insieme e in linea con noi abbiamo il professor Barbanti. Professore, dobbiamo dare una risposta a Piero sulla difficoltà di ricordare i nomi. Vabbè, distinguiamo subito la cosiddetta afasia nominum, quello è un reato condonato da quel dì. La difficoltà a ricordare i nomi ce l'hanno tutte le mamme che non abbiano solo figli singoli ed è un qualcosa che può essere sostanzialmente un fisiologico. Sì. Per quanto riguarda invece quello che diceva il nostro ascoltatore sul fatto di non ricordare o di non avere una prestazione perfetta di fronte agli altri, spiega sostanzialmente come le nostre reazioni di fronte ad un evento, uno stimolo ambientale, un argomento di conversazione, siano condizionate dalla nostra esperienza, dalla nostra cultura e dal nostro allenamento. A forza di parlare in pubblico, il cuore non aumenta più la frequenza, quindi non ci sudano più le mani, non diventiamo più rossi, non ci si impasta più la lingua. Quindi direi anche in questo caso c'è un criterio di interferenza sulla nostra reazione, l'interferenza è data dall'emotività, dal fatto di non essere naturali e quindi, se vogliamo ritorniamo alla questione dei riflessi, di avvertire tutto il lavorio che c'è alla base della risposta, cosa che invece se diamo a un nostro amico o a un nostro figlio esce in maniera naturale. Di questo magari ne potremmo poi parlare sul quid agendum, cioè cosa fare quando le nostre reazioni diventano farraginose, lente, iniziamo, quasi dolorose. Iniziamo ad anticiparlo, professore, perché poi abbiamo Giuseppe che ci aspetta dalla provincia di Lodi. Che cosa si può fare? Ma direi una cosa, facciamo finta che le nostre reazioni, i nostri riflessi siano un po' come delle regioni autonome, o non alludiamo le nostre. Incominciamo ad occuparle mano militari, e cioè entriamo all'interno di quelle reazioni che per colpa del nostro stile di vita, per colpa di un'impostazione sbagliata, sono diventate particolarmente autonome e particolarmente stressate. Per esempio un vizio che può capitare a tutti noi di non rispettare i tempi necessari del riposo, della pausa pranzo e così via, utilizziamo le tecniche di rilassamento. In questa maniera sottoporremo a sorveglianza, sì, ma in questo caso salutare, la respirazione, la circolazione, la tensione muscolare. Ed ecco che quando saremo a parlare in pubblico, giusto per attaccarmi all'ultima cosa detta dall'ascoltatore Piero, riusciremo a tirare fuori non un'orchestra che suona all'unisono un motivo poco chiaro, ma fare squillare prima le trombe e poi gli archi e così via. Quindi tecniche di rilassamento, controllare in maniera scientifica, in maniera cosciente delle funzioni che invece hanno preso il sopravvento in maniera un po' anarchica. Andiamo da Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Bradipo o lepre? Un po' uno e un po' l'altro. Innanzitutto condivido l'ultima osservazione perché, perdonatemi, ho proprio anch'io a volte la sensazione di non rendere al massimo quando sono incalzato dalla controparte. Sì. E anche professionalmente questo a volte è penalizzante. Poi volevo chiedere al professore se la capacità di riflessi può essere educata, può essere migliorata, oppure se è solo un dono naturale e allora mi devo rassegnare. Stia lì Giuseppe. Professor Barbanti, cosa può fare Giuseppe? Che risposta può dargli? Entrambe le risposte che lui stesso ha avanzato sono possibili. In parte è un dono naturale. Pensate, c'erano, se non sbaglio si chiamava Roland Mappes, ed era un dorsista della DDR che aveva dei tempi di reazione nelle gare di dorso a nuoto spaventosi. Ovviamente in quel caso è una fortuna neuromuscolare. Ma le reazioni possono essere educate, le reazioni, non i riflessi, e cioè imparare per esempio ad avere una certa latenza tra quando ti viene data fatta la domanda e quando deve partire la risposta. Il famoso contare fino a 10, professor esatto. Barbanti, soprattutto per le persone che magari scattano. È il contrario di quello che magari ci insegnano gli elementari, chi è che fa 3 per 8, chi risponde prima è più bravo, diventa più bravo chi risponde dopo, respirando, sincronizzando quindi le varie funzioni, levando l'effetto perturbante dell'agitazione che nel breve volgere di qualche istante può ridursi e consentire al soggetto, scandendo bene, prendendo tempo, pensando mentre parla, di non cadere in contraddizione e di dare non il meglio di sé, addirittura l'impressione di valere qualcosa di più. Ci stiamo concentrando sulla parola, ma vorrei anche concentrarmi sui movimenti. Ci sono persone che non stanno mai ferme, si attorcigliano i capelli, tamburellano con le dita, muovono di continuo il piede. Questo tipo di attivazione continua fa bene o fa male? E potrebbe nascondere qualche bisogno? Certamente è un qualcosa che lì per lì fa bene, perché è una delle maniere attraverso le quali noi scarichiamo la tensione e va comunque interpretata, perché più delle volte alla base di questi gesti ripetuti in maniera iterativa c'è una emotività, una condizione di agitazione, di ansia o comunque di stress. Quello che succede è che noi abbiamo immersi dentro il nostro cervello delle bellissime isolette di sostanza grigia chiamate nuclei della base, che fanno veramente di tutto. E sono quelle strutture che sono responsabili dell'armonia dei nostri movimenti, ma ricevono tanti influssi dalle nostre zone emotive cerebrali. Quando questi impulsi giungono oltre misura, danno la caratteristica iterativa al gesto, la ripetitività, tra l'altro in parte incosciente, e chiunque di noi abbia visto un soggetto ticcoso, ci rendiamo conto con stupore che quasi lui non ha fatica a compiere reiteratamente un gesto di per sé difficile. E questi nuclei della base che tanto fascino hanno spiegano anche come mai quando noi dobbiamo ricevere un premio in pubblico camminiamo come degli automi, oppure il fatto che quando ci fanno le fototessere sembriamo scemi, permettete la parola. Sono quindi le strutture che sono responsabili della intonazione emotiva del nostro movimento. Quando l'emotività sale, il movimento cresce. Professore, quindi anche per una mamma, Lucia, che mi scrive: mia figlia non sta ferma un attimo, io sono un po' preoccupata perché anche gli insegnanti mi presentano questo problema, la richiamano, si muove di continuo. La ragazza non è una bambina, mi scrive, a 17 anni. Quale consiglio si può dare? Beh, con tutti i limiti di un giudizio da lontano, escludiamo il fenomeno dell'iperattività, certo. Dico solo una frase come slogan: il movimento viene inventariato. Quando noi siamo giovani, noi produciamo tutto in più, fantasia in più, emotività in più, sentimento in più, movimento in più. poi piano piano viene scremato e rimane ciò che siamo da adulti. Dire alla mamma di rifare un bilancio quando la ragazza avrà 20 anni. E a proposito di reazione, ce ne sono alcune che possiamo attivare con la certezza, questo ve lo assicuro, di farci del bene. Rilassatevi e fatevi accompagnare dal suono. Adesso fate uno sforzo di immaginazione, professor Barbanti, questo fa bene, no? Immaginare di essere in un altro posto. Assolutamente sì, perché è una tecnica di rilassamento. Ecco, allora voi immaginatevi di immergervi, di essere immersi in una piscina di acqua termale, state galleggiando, vi sentite leggeri, leggeri, e intanto che voi vi abbandonate e vi fate un bel respiro, io vi faccio raccontare che cosa vi sta capitando dal dottor Fausto Bonsignori, specialista di idrologia medica e clinica termale e docente all'Università di Pisa e di Milano. Buongiorno, bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Certo, dopo una presentazione del genere non si può che pensare che tutti saranno invogliati a venire alle terme. Senta, ma noi stiamo già lì, in una piscina di acqua termale e ci sentiamo più leggeri. Questa è una piacevole sensazione o reazione che si voglia dire, perché l'acqua fa questo effetto. È subito la prima reazione che abbiamo, forse una delle più piacevoli, il galleggiamento. Le acque minerali sono ricche di minerali, quindi hanno un alto peso specifico e quindi il galleggiamento è più facile, è più semplice. Questo si sfrutta tantissimo nelle terapie di riabilitazione. Ma non è soltanto questo, poi c'è una prima reazione anche breve, perché poi ci sono reazioni a breve termine, reazioni un pochino più a lungo termine. Per esempio, una buona risposta è quella che dà subito il nostro sistema circolatorio, sia quello, chiamiamolo superficiale, sia quello profondo. C'è una specie di riequilibrio termico dei nostri organi all'interno di una bella piscina di acqua termale calda. In parole povere, le articolazioni, le estremità, che hanno sempre una temperatura più fredda, quindi una circolazione anche più difficoltosa, grazie a un bel bagno in una piscina terapeutica termale, naturalmente questa temperatura si riequilibra, quindi c'è un maggior afflusso di sangue, un miglioramento del micro e del macrocircolo, quindi miglior ossigenazione dei tessuti periarticolari e delle estremità. Senta, ma quanto dura questa benefica reazione? La benefica reazione si può misurare anche dopo il bagno termale, inteso come un bagno termale terapeutico. Si misura dopo, si misura anche col fatto che dopo una buona balneoterapia dobbiamo osservare un periodo di riposo, ben coperti, in relax, la prima reazione termale, dove c'è una certa sudorazione, un certo riequilibrio termico, e quindi il beneficio dura, come dura ancora per esempio il beneficio di un rilassamento muscolare ed articolare. In un bel bagno termale abbiamo sempre un bagno terapeutico, intendo, abbiamo una decontrattura dei muscoli scheletrici, una migliore mobilità articolare, un effetto anche antidolorifico, antalgico, che perdura nel tempo. Però questi sono effetti, diciamo, quasi immediati, che una reazione quasi immediata che si ha con l'acqua termale. Poi ci sono anche reazioni un pochino più a distanza, un po' più complesse, che prevedono la messa in movimentazione di alcuni anche ormoni interni, per esempio una cosa più di effetto più a distanza, che magari pochi sanno, è un effetto diuretico, cioè stando in un bel bagno di acqua termale dopo un po' di tempo usciamo e abbiamo più desiderio di far pipì. Quindi mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà, mi scappa la pipì. Professore, quindi un effetto diuretico? Anche diuretico, sì, che è fantastico, perché è un effetto diuretico, un effetto disintossicante, è un effetto che stimola tutta una serie di risposte ulteriori dell'organismo. Questo viene fatto grazie alla stimolazione di un ormone, che è l'ormone natriuretico, un nome un po' difficile, ma per capirsi c'è una maggior diuresi dopo un bagno termale. Come c'è una bella risposta della nostra cute, la pelle risponde. Insomma, un bel bagno termale ci fa bene, ci rende belli, ci scalda, ci tonifica, ci fa sentire più leggeri, ci fa fare anche la pipì. Professore, sì. grazie per essere stato con noi e per averci portato alle terme. Essere e benessere.

veramente sono difficoltosi, hanno problemi di spostamenti perché non fanno tempo a salire in auto e stanno immediatamente male, quindi ovviamente ci sono delle situazioni che possono essere, delle volte in cui il viaggio può essere evitato, altre volte che può essere necessario affrontarlo, e quindi si può eventualmente anche programmarlo, quindi si possono utilizzare questi antiemetici, che bisogna ricordare che comunque sono efficaci se somministrati almeno 30-60 minuti prima della partenza, quindi non nel momento in cui compare il bambino è già seduto, esatto, compare il sintomo, comunque provocano sonnolenza. Esatto, quindi però ci sono anche delle limitazioni, soprattutto di età. Direi che generalmente, purtroppo, e qui però ricadiamo nella grande maggioranza dei bambini, nei primi anni di vita sarebbe opportuno evitarli. Ecco. Questo purtroppo sì. Quindi ci sono, quindi sono prodotti, sono gomme masticabili, sono pastiglie, insomma, senza fare nomi, che possono comunque essere utilizzati nei primi 12 anni di vita alcuni, e altri assolutamente dopo i 12 anni. Ecco, però possiamo mandare le nostre mamme all'ascolto il messaggio: parlatene sempre con il vostro pediatra prima di somministrare qualunque tipo di farmaco al vostro bambino. Ecco, il fai da te, l'iniziativa della mamma, che di solito non sbaglia, in questo caso meglio consultarsi col pediatra. Intanto, professore, io la ringrazio per essere stato con noi. Nulla. Buona giornata. Grazie a voi e buona giornata. Grazie. Arrivederci. E per oggi è tutto, cari amici. Siamo stati una settimana insieme, ma lunedì noi torniamo di nuovo dopo il GR delle 11. Vi aspetto, non mancate. Intanto, buon weekend da Nicoletta Carbone.